Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io, mio padre e tutta la mia famiglia abbiamo la volontà assoluta di difendere la nostra azienda. In ogni modo e a tutti i costi. Io, noi, tutti noi non molliamo. Qui siamo e qui rimaniamo. Qui siamo e qui rimaniamo. Qui siamo e qui rimaniamo. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mi sembra che il concetto sia chiaro, quello espresso da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che a proposito della scalata in questi giorni, sapete, aggressiva di Vivendi, del colosso francese, a Mediaset dice appunto non molliamo, siamo qui e qui rimaniamo, e questo è chiaro. Parleremo di molte cose come sempre stasera qui Effetto Notte, e naturalmente ci ricollegheremo con Berlino per sentire quali sono le novità sulla strage di lunedì, perché sembra che adesso si stia cercando, cioè caccia all'uomo in tutta la Germania, un tunisino, un giovane tunisino che tra l'altro sarebbe arrivato prima in Italia come minore da solo, sarebbe stato 4 anni in carcere in Italia, considerato un uomo violento, e poi doveva essere espulso in Tunisia, in realtà poi alla fine è finito in Germania. Dice la polizia tedesca, lo stiamo cercando, non è detto che sia per forza lui il colpevole, comunque insomma è ricercato in tutta la Germania. Poi ci sposteremo invece sulle cose nostrane, su Roma, perché sembra che questo psicodramma non finisca mai, c'è una nuova dimissione, quella del capo di gabinetto Romeo. E poi l'ANAC, l'anticorruzione, dice che c'è un conflitto di interessi per la nomina del fratello di Raffaele Marra, che sapete è stato arrestato nei giorni scorsi. Poi c'è il meteo, insomma parleremo come sempre di un sacco di cose. Non perdete un solo minuto di Effetto Notte, sino alle 22 siamo in compagnia, e per le vostre interazioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Allora, prima di approfondire alcuni argomenti, naturalmente prima il racconto della giornata. La strage di Berlino taglia da 100.000 euro sul giovane tunisino ricercato. Era arrivato in Italia e dopo 4 anni di carcere era andato in Germania. A luglio era stato fermato e poi rilasciato. La gaffa di Poletti sui giovani all'estero. Le opposizioni chiedono la sfiducia, è inadeguato, dicono, ma il ministro replica, non mi dimetto. Roma, l'anticorruzione sulla nomina del fratello di Marra, dice, fu illegittima e Raggi ne era a conoscenza, quindi può essere indagata. Si dimette intanto il capo di gabinetto Romeo. Lavoro, secondo i dati Istat, gli aumenti delle retribuzioni non sono mai stati così bassi. Siria, accordo ad Aleppo, ripresa l'evacuazione della zona est, gli islamisti rivendicano l'omicidio dell'ambasciatore russo Karlov, ma Al-Qaeda nega. Migranti, 7 cadaveri sono stati recuperati oggi nel Mediterraneo centrale durante alcune operazioni di soccorso, 300 le persone salvate. Il caso di Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli condannato a 20 anni, l'uomo interdetto a vita dalla potestà genitoriale, resta però libero, imposto l'obbligo di dimora. Arde, rientrati in Italia i quadri rubati al Museo di Castelvecchio, i capolavori sono arrivati accompagnati dal ministro Franceschini e dal sindaco di Verona Tosi. Meteo, bel tempo, con sole, temperature miti per le vacanze di Natale fino a Capodanno. E per il calcio, in anticipo di Serie A, l'Inter ospita la Lazio. Partiamo quindi dalla strage di Berlino e caccia all'uomo, vi dicevo, in Germania, dopo la strage ai mercatini di Natale. Con una vasta operazione di polizia è stato emesso un mandato di cattura internazionale, offerta una taglia da 100.000 euro per questo giovane tunisino, i cui documenti sono stati trovati nel tir killer. L'uomo, Anis Amri, è stato 4 anni in carcere in Italia, dove era arrivato minorenne. Dopo aver scontato la pena, ha ricevuto un provvedimento di espulsione dal nostro paese, provvedimento che però non è andato a buon fine perché le autorità tunisine non hanno effettuato la procedura di riconoscimento nei tempi previsti dalla legge. Successivamente ha lasciato l'Italia per la Germania. A luglio poi sarebbe stato fermato in Germania dopo un controllo, poi liberato. Il ministro dell'interno tedesco De Maizière però chiarisce, è un sospettato, non necessariamente il colpevole. A Berlino intanto sono in corso gli esami del DNA per l'identificazione della giovane italiana Fabrizia Di Lorenzo, la madre in lacrime ha ammesso, sento che mi ha abbandonata. E intanto a Palermo Giuseppe La Grassa, ferito dal tir, dice, siamo stati miracolati lui e la moglie. Alfano, ministro degli esteri, era a Berlino oggi, loda la Merkel, dice, un esempio in tutto il mondo, la solidarietà ha un costo politico. E intanto, dopo la strage di Berlino, in Italia si rafforzano le misure di sicurezza. La libertà non è data per sempre e occorre battersi per difenderla. Pensiamo che Combattere contro il terrore significa combattere per la libertà. Così Angelino Alfano a Berlino, dove ha incontrato il suo omologo tedesco Steinmeier. Abbiamo parlato di come rafforzare la cooperazione internazionale contro il terrorismo, ha spiegato il nostro ministro degli esteri, mentre in Europa si profila un tale blindato. In Italia il Viminale, pur in mancanza di allarmi specifici per il nostro paese, ha rimodulato le misure legate alla sicurezza in vista delle festività natalizie. Un'attività di prevenzione che era già in atto, spiega Radio 24 Franco Roberti, procuratore nazionale antiterrorismo. Guardi, noi in Italia non abbiamo mai ridotto il nostro stato di allerta, questo io lo posso assicurare. Questo, ripeto, non ci rende immuni dal rischio in assoluto. Proprio per prevenire eventuali gesti emulativi, prefetti questori sono chiamati ad alzare controlli e a valutare misure di difesa passive a protezione di aree turistiche o luoghi affollati con dissuasori, jersey o transenne. Provvedimenti adottati tra gli altri a Genova, Firenze, Pisa, Trento, oltre che nella capitale, dove nel pomeriggio si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. A Milano verranno posizionate nella notte le barriere antisfondamento in cemento. Proteggeranno 10 aree, tra cui il centro e la zona Navigli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana con la mozione di sfiducia nei confronti del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che è stata depositata da Lega, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Le scuse del ministro su Facebook non sono evidentemente bastate. Le sue parole sui giovani che vanno all'estero, conosco gente che è bene che stia dove è andata, aveva detto Poletti, non possono però essere archiviate per gran parte delle opposizioni. Ecco allora la mozione di sfiducia prima al Senato e poi alla Camera, a firma di Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Lega. Si chiede un passo indietro del ministro del lavoro, visto il comportamento totalmente inadeguato al suo ruolo, così Salvini. Mi auguro un 2017. Anno nuovo, Parlamento nuovo e Governo nuovo, anche perché di essere rappresentato in Italia e nel mondo da personaggetti come Alfano, la Fedeli, Poletti. Esposto in procura e alla Guardia di Finanza, quindi sempre della Lega, sui contributi pubblici che secondo i social avrebbe ricevuto il figlio di Poletti, giornalista e direttore di un settimanale delle Coop. Le accuse non scuotono comunque il ministro, che dice no alle dimissioni, si è scusato e non si deve dimettere, aggiunge dal PD il capogruppo Rosato. Erano parole sbagliate, lo ha detto anche lui, mi sembra che la questione sia risolta così. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Roma rimaniamo la nuova grana per la Giunta Raggi. L'autorità anticorruzione ha inviato alla Procura i documenti sulla nomina del fratello di Raffaele Marra, ritenendo configurabile il conflitto di interessi per il caso che riguarda la nomina del fratello di Marra alla direzione turismo. Tale situazione, secondo l'autorità, riferisce in una nota, sussiste sia nel caso in cui il dirigente abbia svolto un mero ruolo formale nella procedura che nell'eventualità di una sua partecipazione diretta attiva all'istruttoria. Per l'ANAC, l'autorità anticorruzione, Raggi ne era a conoscenza e può quindi essere indagata. Intanto, tra l'altro, si è dimesso il capo di gabinetto Romeo. E sui nuovi capitoli di questa vicenda romana torneremo poi più tardi nel corso di Effetto Notte. A Milano invece è durata pochi minuti l'intervento di Beppe Sala, rientrato oggi in Consiglio Comunale dopo la decisione di autosospendersi da sindaco 5 giorni fa. Come aveva annunciato, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di assentarsi in seguito al suo coinvolgimento come indagato nell'inchiesta sui lavori della piastra di Expo, l'appalto più importante dell'evento. È stato un discorso di circa 10 minuti, ha chiarito la sua posizione, ha detto: l'autosospensione è stata una buona decisione, adesso posso tornare con energia nei miei poteri perché so che non ci sono condizioni derivanti dalla mia posizione di indagato. Ieri ho verificato l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere il mio lavoro, che richiede serenità e tranquillità, ha detto Beppe Sala, anche perché siamo esseri umani, non macchine, non possiamo passare la giornata a rispondere ai giornalisti, a parlare agli avvocati. Risponderò, ha detto, alla Procura Generale quando verrò convocato. I dati dell'Istat sulle retribuzioni: a novembre l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,4% nei confronti di novembre 2015, segnando l'incremento più basso delle retribuzioni dall'inizio delle serie storiche, cioè nel 1982. E oggi è arrivato il via libera parlamentare alla relazione del governo sul salva risparmi per autorizzare un debito aggiuntivo fino a 20 miliardi legato ad eventuali provvedimenti sulle banche. Il Parlamento ha detto sì all'aumento del debito pubblico per aiutare le banche in difficoltà. Camera e Senato hanno approvato questa mattina la relazione con la quale il governo ha chiesto l'autorizzazione parlamentare ad aumentare il debito fino a un massimo di 20 miliardi a valere sul bilancio 2017 da usare per i salvataggi bancari, tenendo però conto dei risparmiatori, assicura Padoan. Gli impatti sui risparmiatori saranno e questo è l'impegno del governo, ove si dovesse dar vita a interventi, saranno assolutamente minimizzati o resi inesistenti. Già prima del fine settimana il governo potrebbe mettere in campo un primo intervento a supporto del Monte dei Paschi di Siena, se domani l'articolata ricapitalizzazione di mercato da 5 miliardi non dovesse concludersi positivamente. Oggi intanto l'Istituto Senese ha chiuso la seconda tranche dell'operazione di conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, raccogliendo circa 1 miliardo, che si aggiunge al miliardo della prima tranche. Domani alle 14 scadrà il termine per l'adesione all'aumento di capitale e si saprà se l'obiettivo dei 5 miliardi è stato raggiunto. Teresa Trillora, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo di MPS. È stato convocato per domani un CDA, un consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, per fare il punto della situazione in base all'esito dell'aumento di capitale che si chiuderà alle 14. Secondo quanto si apprende, la riunione dovrebbe svolgersi a Milano e un altro CDA poi è fissato per venerdì. La scalata di Vivendi a Mediaset, avete sentito all'inizio Pier Silvio Berlusconi, e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a seguito di un esposto presentato da Mediaset, ha deliberato nella seduta odierna di aprire un'istruttoria sulla scalata del gruppo francese Vivendi. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria, si legge in una nota dell'autority, sarà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato sul sito web dell'autorità. Adesso spostiamoci all'estero. In Siria l'ala siriana di Al-Qaeda smentisce ogni legame con l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia. Interpellato dall'ANSA, Mohammed Al-Ansari, uno delle portavoci di Jabhat Fateh al-Sham, la sigla che raccoglie i qaedisti siriani, ha affermato che quanto diffuso oggi da alcuni media è falso e che il gruppo Jabhat Fateh al-Sham non è legato in alcun modo all'uccisione dell'ambasciatore russo. E poi parliamo di immigrazione, emergenza immigrazione che continua. 7 cadaveri di migranti sono stati recuperati oggi nel Mediterraneo centrale durante alcune operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. Nel corso delle stesse operazioni sono stati tirati in salvo 300 migranti. E ora di nuovo in Italia con la cronaca, il caso di Roberta Ragusa, la donna sparita nel nulla dalla sua abitazione alla periferia di Pisa, vi ricordate, ormai 5 anni fa. Bene, oggi il marito Antonio Logli è stato condannato a 20 anni. L'uomo, interdetto a vita dalla potestà genitoriale, resta però libero, gli è stato imposto solo l'obbligo di dimora. E su questo fatto di cronaca molto molto discusso e che ha colpito molto l'opinione pubblica, poi torneremo nel corso di Effetto Notte. C'è un altro caso di cronaca, una donna uccisa a Bergamo, le indagini degli agenti della squadra mobile di Bergamo, coordinati dal procuratore e dal PM Davide Palmieri, stanno scandagliando tutti gli aspetti della vita di Daniela Roveri, la donna di 48 anni trovata uccisa ieri con una coltellata alla gola sul pianerottolo di casa a Bergamo. Non esclusa l'ipotesi della rapina, perché sarebbero spariti la borsa e un telefono cellulare della vittima, ma stanno anche sentendo persone che appartengono al suo ambiente lavorativo. Una buona notizia per l'arte: sono di nuovo a Verona i 17 capolavori trafugati nel corso di una rapina al Museo di Castelvecchio il 19 novembre 2015. Le opere, tra le quali i dipinti di Rubens, Mantegna, Tintoretto, per un valore stimato di 20 milioni di euro, sono rientrate oggi alle 18 con un volo da Kiev, accompagnate tra gli altri dal ministro dei beni culturali Franceschini e dal sindaco di Verona Flavio Tosi, che in mattinata le avevano prese in consegna dal presidente ucraino Poroshenko. Il meteo: Natale senza neve, sappiatelo per gli amanti della neve, ma col sole, temperature miti previste, alta pressione sul Mediterraneo, nebbie purtroppo al nord, però ce lo spiegherà poi meglio alla fine della puntata il nostro meteorologo. Per chiudere il calcio con Dario Ricci, che mi sa che ci darà notizia di uno 0-0 per il momento, non è vero Dario? Sì, ti do notizia anche del fatto che a San Siro c'è la nebbia, quindi previsioni azzeccatissime, direi, perché sta scendendo la nebbia anche questa sera su un San Siro che sta ospitando Inter-Lazio, uno dei big match di questa 18ª giornata, che poi domani si completerà, al netto chiaramente delle partite di Milan e Juventus rinviate all'8 febbraio per l'impegno nella finale di Supercoppa da parte di bianconeri e rossoneri venerdì alle 17:30 italiane a Doha. Siamo però al 28esimo di gioco a San Siro, il risultato è ancora di 0-0, finora decisamente meglio la Lazio, vicina al vantaggio in almeno 3 occasioni, 2 volte ci ha messo le sue manone Handanovic nel respingere le conclusioni di Immobile e di Felipe Anderson. Sulla terza invece sfortunata la Lazio, perché il colpo di testa di Milinkovic-Savic su azione di calcio d'angolo è finito di pochissimo alto sulla traversa. Insomma, un Inter che sta soffrendo contro una Lazio decisamente pimpante. 29esimo di gioco, 0-0 fra Inter-Lazio finora a San Siro. Dario, sarà uno 0-0 anche perché non si vede la palla, o si vede ancora? No, si vede ancora, si vede ancora male, quindi ancora manca proprio la mira, vedremo. Vedremo più tardi, ci aggiorniamo con Dario Ricci. Grazie Dario, intanto per i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mi chiede un ascoltatore, no, aggiornate stasera la pagina di Effetto Notte. Sì, vi ho scritto un messaggio poco fa, poi dice un altro ascoltatore, Marco da Varese: ciao Roberta, cosa pensi dell'accanimento mediatico sulla Raggi? Come mai su Sale è tutto soft? Rispondi, la stampa in Italia è libera, il no alle Olimpiadi, ecco perché la Raggi è attaccata. No, non credo che sia il no alle Olimpiadi, certo a molti sarà dispiaciuto questo diniego, lei ha spiegato le sue ragioni e legittimamente insomma così ha deciso. L'accanimento mediatico, troverei che si tratti di accanimento, basta vedere che purtroppo ogni giorno ce n'è una, poi sarà in preparazione, sarà sprovveduta, sarà consigliata male, non si sa, però insomma rispetto a Sala abbiamo spiegato anche ieri la situazione. È una inchiesta un po' particolare, che prima era partita, poi è stata chiusa, poi è stata ripresa. Lo stesso Parisi, che era il suo rivale nella corsa a sindaco, Parisi del centrodestra, ha detto che non è un'indagine con degli elementi gravi a suo carico. Adesso si vedrà che cosa succede, però per la Raggi mi sembra che purtroppo tra un sacco di dimissioni, poi Marra che è stato arrestato, adesso il bilancio che è stato bocciato, insomma un po' di magagne ci sono e ne parleremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberto Giordano con voi dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando. E vedevo un messaggio di un ascoltatore che diceva che questa strage di Berlino insomma gli fa un po' cambiare la voglia di vivere il Natale con più libertà, però sapete, naturalmente lo si dice, sembra retorica, ma insomma per battere la paura e per non piegarsi al terrore che effettivamente appunto questi attentati con cui vogliono distribuire terrore in tutta Europa e non solo, il modo migliore di reagire naturalmente, se si può, se si vuole, è mantenere le proprie abitudini. Federico da Firenze dice: sono appena uscito dal più grande centro commerciale, scrive anche Federico, della Toscana, ho pensato cosa succederebbe se qualcuno volesse fare un gesto dimostrativo nei nostri luoghi così affollati in questi giorni, spero tanto che i controlli siano efficaci. I controlli ci sono e abbiamo sentito anche che il ministro dell'interno ieri ha dato ordine, il Viminale, a tutte le prefetture in Italia di rafforzare le misure di sicurezza. Ho visto che anche i mercatini di Trento, no, in Trentino, in Alto Adige, sapete che è una tradizione da sempre quella dei mercatini di Natale, sono state rafforzate le misure di sicurezza. Così oggi a Roma c'è stata anche una riunione del comitato di sicurezza e c'era anche il ministro Minniti. A Milano avete sentito delle barriere antisfondamento e così anche a Firenze l'attenzione ai camion, ai tir in città. Insomma, si fa tutto quello che si può, è chiaro che l'imprevedibilità è la carta forte di questi personaggi, purtroppo. Tra poco poi continuerò a leggere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Adesso però, se non avete acceso puntualmente alle 21, prima di passare all'approfondimento di alcuni temi, vi ricordo le notizie più importanti. In Germania caccia il tunisino in fuga, per 4 anni è stato in carcere in Italia, è considerato armato e pericoloso e la mamma dell'italiana dispersa di Fabrizia Di Lorenzo dice con una dolorosa rassegnazione: mi ha lasciata. L'ANAC, l'anticorruzione, accusa di conflitto di interessi la giunta Raggi per Marra e per la nomina del fratello in un altro ruolo nell'amministrazione, e dice l'ANAC che Raggi sapeva e che quindi può essere indagata. Intanto c'è stata un'altra dimissione, un passo indietro di Romeo, capo di gabinetto, che dice: ho sbagliato, mi scuso coi romani. E poi bufera sul ministro Poletti, sapete, per le frasi che ha detto sui giovani all'estero. È stata depositata la mozione di sfiducia da parte di Lega, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. E poi accordo ad Aleppo per appunto la pace in Siria, ripresa l'evacuazione della zona est. Gli islamisti rivendicano l'omicidio dell'ambasciatore russo, mentre Al-Qaeda nega. E poi ha fatto notizia che Papa Francesco ha fatto shopping oggi a Roma, ha comprato un paio di scarpe in un negozio sanitario, il video sui social. L'omicidio di Roberta Ragusa, Antonio Logli, il marito, è stato condannato a 20 anni, però resta libero, gli è stato imposto solo l'obbligo di dimora. E poi questa notizia: gli italiani internet, 1 su 3 senza accesso da casa, ma il 60% utilizza il web. E per quanto riguarda l'anticipo di Serie A, Inter-Lazio 0-0. I terroristi vogliono aggredire le nostre libertà fondamentali. Quando non puntano a sovvertire le istituzioni, puntano comunque a sovvertire il nostro modo di vivere quotidiano, e dobbiamo reagire catturando chi realizza attentati, al tempo stesso catturando i fiancheggiatori e realizzando forme di cooperazione tra i paesi che rendono il nostro mondo sempre più unito rispetto a sfide che non hanno confini. Avete sentito anche il ministro Alfano, oggi era a Berlino, si è congratulato con la cancelliera Merkel e le parole sono queste, no? Nel senso, continuiamo a difendere i nostri valori di democrazia, di libertà, di apertura, e si fa tutto il possibile per prevenire, ma naturalmente è stato ripetuto tante volte, il rischio zero non c'è da nessuna parte. E a proposito della strage di Berlino, ci colleghiamo subito con la capitale tedesca, con Gloria Remegni, vice direttrice di Berlino Magazine. Buonasera Gloria, ciao. Buonasera. Senti, arrivano quindi oggi delle novità, no? da Berlino sulla strage, ricordo, di lunedì, con questo tir piombato sulla folla che era raccolta attorno ai mercatini di Natale. Sono morte 12 persone, 48 i feriti, e sapete che in un primo tempo era stato fermato un pakistano, poi rilasciato perché non c'entra nulla. Ora invece, Gloria, c'è caccia all'uomo in questo giovane tunisino che, tra l'altro, è stato emanato un mandato di cattura internazionale e una taglia da 100.000 euro. Si è saputo che era arrivato in Italia qualche anno fa, mi pare nel 2012, era stato in carcere 4 anni, poi doveva essere espulso verso la Tunisia, pratiche burocratiche, le solite lentezze, arzigogolamenti eccetera. Se n'è andato in Germania e per ora è sospettato di questa strage, anche se, ha detto il ministro dell'interno tedesco, non è detto che sia il colpevole. Gloria? Sì, esatto. Dopo il fermo della persona sbagliata, le autorità e le forze dell'ordine si pronunciano sempre ora in modo molto più prudente, e quindi anche questo spiega la dichiarazione del ministro degli interni. Ad ogni modo, Anis Amri era già noto alle forze dell'ordine per alcuni crimini, ma soprattutto come soggetto pericoloso per la vicinanza allo Stato Islamico. Pare che abbia tentato di reclutare soldati per l'ISIS, pare che abbia cercato di reperire delle armi. Ad ogni modo, era stato avviato, lui aveva fatto una richiesta di asilo in Germania ad aprile 2016, che però era stata appunto respinta prima dell'estate. Doveva venire espulso e appunto rimpatriato, ma inizialmente la Tunisia ha contestato addirittura la cittadinanza tunisina del soggetto. Poi ha accettato a inviare dei documenti sostitutivi per effettuare il rimpatrio, e questi documenti, per il della sorte, sono arrivati proprio oggi. Senti, tra l'altro sembra che a proposito che i suoi documenti siano stati trovati sul tir, come era successo anche forse, mi pare, per la strage di Nizza, i documenti del tunisino? Come anche nel caso di Charlie Hebdo, i documenti sono stati trovati appunto nell'abitacolo. Che è curioso, no? Che non se li porta o li straccino, li buttino via, questa è una cosa un po' particolare. Sì, è curioso, ma non è ancora chiaro se è appunto da interpretare come una svista o come un atto volontario, perché può essere una firma sull'atto, quindi una sorta di rivendicazione. Pronto? Si vede che la linea con Berlino adesso diventa un po' difficile. Gloria Remegni, mi senti? No, adesso vediamo di ricollegarci con Gloria, vi dicevo, direttrice di Berlino Magazine, che ci stava raccontando appunto quali sono le ultime novità su questa caccia all'uomo in Germania. Un giovane tunisino di 22-23 anni che era arrivato in Italia come minore da solo qualche anno fa, poi aveva fatto 4 anni in carcere e poi doveva essere espulso verso la Tunisia. Queste pratiche di documenti così lente, diceva Gloria, la giornalista di Berlino, che proprio così, diciamo, come beffa, sono arrivati dopo tanto tempo questi documenti soltanto oggi dalla Tunisia, e intanto lui era andato in Germania e pare sia il sospettato principale. Gloria, ecco, era caduta la linea. Sì, infatti. Sì. Stavo dicendo che appunto non è necessariamente da interpretare come un atto, una svista da parte dell'attentatore, ma può essere appunto un tentativo di depistaggio o piuttosto una firma sull'atto, quindi una rivendicazione orgogliosa, nel senso di dire l'ho fatto io, una cosa di questo tipo. Senti, ci diceva ieri anche una tua collega che i mercatini quindi adesso sono tutti blindati, chiusi lì a Berlino, vero? Ieri erano chiusi, oggi i mercatini di Natale hanno riaperto. Invece ieri per chiaramente l'evento drammatico, per solidarietà, i mercatini di Natale sono stati chiusi. Alcuni, un paio, hanno aperto per un'ora ma poi hanno subito appunto chiuso nuovamente. Inizialmente non era chiaro insomma cosa fosse successo. Oggi invece hanno riaperto i mercatini di Natale, i mezzi scorrono anche più regolarmente, la città inizia a muoversi lentamente, a tornare in carreggiata. Senti, invece per la dispersa italiana, la giovane Fabrizia Di Lorenzo, oggi è ancora in corso il test del DNA e mi pare che ci siano delle procedure, no, in Germania un po' diverse da quelle in Italia, cioè non fanno vedere il corpo, il cadavere della persona finché non sono stati fatti questi test del DNA e cioè viene accertato che ci sia una corrispondenza, è vero? Prima bisogna accertarsi che si tratti effettivamente di parenti per poi procedere al riconoscimento. Questo spiega queste interminabili ore di attesa che ormai ci separano dall'accaduto di lunedì sera, e ancora siamo senza una risposta. I genitori si dicono rassegnati. Dicono di aver perso le speranze già verso l'una di notte dopo l'accaduto, poi Fabrizio non si è recato al lavoro il giorno dopo, quindi gli elementi ci sono tutti purtroppo per pensare purtroppo il peggio. Pare sia così. E tra l'altro vedo messaggi di ascoltatori e ascoltatrici a proposito del cambiare o no mete, luoghi che avevano pensato per Natale. Antonio scrive: io no, rimanevo a Roma prima, rimango a Roma pure adesso. Alessandro: decisamente no, non vedo il motivo. Margherita anche dice no, qualcuno è spaventato dall'idea di frequentare luoghi affollati, ma insomma purtroppo non, come abbiamo detto, non è prevedibile, non possiamo costringere troppo le nostre vite, no, a comprimersi ulteriormente. Com'è l'atmosfera per chiudere, Gloria, lì a Berlino? Sicuramente c'è della paura, questo è inevitabile, ma i berlinesi non si scompongono troppo e anche le autorità hanno consigliato comunque di continuare, di prestare molta attenzione, soprattutto alla luce del fatto che l'attentatore è a piede libero, però di non rinunciare alla propria libertà. Dunque tutte anche le feste che sono previste per il periodo natalizio e per Capodanno sono confermate, ci sarà un'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine nei luoghi pubblici e anche di strutture che consentiranno una maggiore sicurezza. Grazie Gloria Remegni di Berlino Magazine, grazie e buon lavoro a te Gloria. Ciao. Grazie, buona serata. Comunico all'Aula che è stato depositato il parere da parte dell'ORF, perché tale parere è non favorevole, motivo per cui sospendo la seduta e convoco immediatamente la conferenza dei presidenti dei gruppi. Questo era l'audio non nettissimo, ma insomma era lì dentro l'aula del Consiglio Comunale Romano. De Vito, il Presidente del Consiglio, che ieri, vi ricordate, ha dato notizia che l'organo di controllo ha bocciato il bilancio previsionale 2017 della Giunta Romana. Insomma, continuano i capitoli purtroppo di questo psicodramma, perché di giorno in giorno vengono fuori cose nuove. Saluto Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Cara Manuela. Ciao, ben trovata. Ben trovata a te, Manuela. Qualcuno parla di accanimento sulla Raggi invece di una mano soft su Sala, però ho cercato di spiegare un po' prima le differenze, poi su Sala si vedrà se andrà avanti, insomma l'indagine continua, e però qui a Roma è un po' una questione diversa. Fra l'altro, dopo l'ultima tegola pesantissima, quella dell'arresto di Raffaele Marra, che comunque era considerato un collaboratore stretto di Virginia Raggi, oggi c'è stata una nuova dimissione, perché tante ce n'erano state, no? Di dimissioni, quella di Salvatore Romeo, capo della segreteria di Virginia Raggi, vero Manuela? Capo segreteria, in realtà non è una vera e propria dimissione, è una rinuncia all'incarico che era stata pretesa dai vertici del Movimento 5 Stelle all'indomani dell'arresto di Marra. Quindi ha fatto un passo indietro, diciamo. Ha fatto un passo indietro, ha rinunciato formalmente a un incarico che tanto aveva fatto discutere. Ricordiamoci che Romeo, da semplice funzionario comunale, era stato assunto come capo segreteria di Virginia Raggi con uno stipendio triplicato, passato da 40.000 a 120.000 euro, con una procedura che adesso è sotto osservazione appunto da parte della Procura di Roma e che presenta tanti lati abbastanza oscuri. Però la cosa più forte di oggi, Manuela, è questa, questa dichiarazione dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, che ha ravvisato un conflitto di interessi che riguarda il fratello di Raffaele Marra. L'uomo che è stato arrestato nei giorni scorsi. Ebbene sì, l'ANAC in una delibera ha sancito, ha ravvisato un palese conflitto di interessi, perché Marra, quando era fino a venerdì scorso capo del Dipartimento del Personale del Campidoglio, ha partecipato alla procedura di nomina di suo fratello, vice comandante della Polizia Municipale, che ha ottenuto l'incarico di capo della Direzione Turismo del Comune di Roma. Da subito questa procedura ha destato più di un sospetto. Il sindacato Direr, il sindacato dei dirigenti, ha presentato un esposto all'ANAC, e l'ANAC oggi ha replicato con una delibera molto dura. Molto dura non soltanto perché accusa, perché appunto ravvisa il palese conflitto di interessi, ma perché aggiunge che la sindaca lo sapeva e non ha fatto nulla per esonerare Marra dalla partecipazione al procedimento di nomina. Senti Manuela, tra l'altro invece per la questione del bilancio, adesso cosa potrebbe succedere dopo questa bocciatura, che si sa che a volte le giunte possono anche cadere, no? su una cosa sì, di questo tipo? L'assessore al bilancio Mazzillo ha assicurato che adesso si rimetteranno tutti al lavoro anche durante Natale e Capodanno per approvare il bilancio nei termini di legge, cioè entro il 28 febbraio. Se non dovessero farcela entro il 28 febbraio, allora potrebbe scattare effettivamente, come dire, il commissariamento. A mio avviso il rischio maggiore in questo momento arriva dalla Procura, perché la delibera dell'ANAC è stata trasmessa alla Procura di Roma, che già ha un fascicolo aperto sulle nomine, sul conflitto di interessi. Esatto, da cui potrebbero eventualmente scaturire delle ipotesi di reato anche a carico della sindaca. Eh sì. Vediamo. E quindi ci saranno due mesi intensi, molto caldi. Intensi. Sì, altri due mesi intensi. Grazie Manuela Perrone del Sole 24 Ore, buon lavoro. Ciao Manuela. Grazie a voi. Ciao. Ora direi che possiamo prenderci una pausa, ma non si devono abbassare gli stipendi, questi del Movimento 5 Stelle? Si sono abbassati? Grazie per favore, chiede qualcuno, evidentemente, non lo so, una domanda. E poi invece Boris che scrive i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Note, dice: ma perché adoperare un camion per uccidere se è molto più semplice travestirsi da Babbo Natale, riempire il sacco di doni con esplosivo e farsi esplodere? Beh, questa purtroppo è un'eventualità sempre possibile, però vi dicevo ieri che c'era proprio questo documento dell'ISIS che parlava dell'efficacia di mezzi, purtroppo mezzi pesanti come tir e camion. Ecco perché anche a Milano, in alcune città, si stanno facendo queste barriere antisfondamento. Vedete un po' se dobbiamo vivere in questo modo. Ci sentiamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Proseguiamo allora con gli argomenti da approfondire. All'inizio avete sentito come sempre il riassunto della giornata da non perdere per rimanere sempre aggiornati sulle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Poi abbiamo parlato del caso Roma con un nuovo capitolo che riguarda soprattutto questa delibera dell'ANAC, l'anticorruzione, su un conflitto di interessi che ci sarebbe per la nomina nell'amministrazione romana del fratello di Raffaele Marra, che è stato arrestato nei giorni scorsi. Ci siamo aggiornati sulle ultime da Berlino con questa caccia all'uomo nei confronti di un giovane tunisino che sarebbe sospettato come il principale sospettato come colpevole della strage di lunedì. Tra l'altro sarebbe arrivato, secondo la ricostruzione, in Italia anni fa, avrebbe fatto 4 anni di carcere, poi doveva essere espulso verso la Tunisia, poi invece per lungaggini burocratiche varie se n'è andato tranquillamente in Germania. Adesso invece parliamo del caso di Roberta Ragusa e chiede tra l'altro una domanda anche pertinente questo ascoltatore. Vi ricordo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Dice: mi piacerebbe sapere che razza di condanna è quella inflitta al marito di Roberta Ragusa. Se è colpevole di omicidio, perché non deve andare in galera? È la prima volta che sento una cosa del genere. Il codice prevede anche questo. Vorrei capire meglio e tra poco capirà in particolare questo ascoltatore. Però vi ricordo, perché qualcuno accede alla radio magari non puntualmente alle 21, le notizie principali. La strage di Berlino taglia da 100.000 euro sul giovane tunisino ricercato. Era arrivato in Italia e dopo 4 anni di carcere era andato in Germania. A luglio era stato fermato e poi rilasciato. La gaffe di Poletti sui giovani all'estero. Le opposizioni chiedono la sfiducia. È inadeguato, dicono, ma il ministro replica: non mi dimetto. Roma, l'anticorruzione sulla nomina del fratello di Marra fu legittima e Raggi ne era conoscenza e può essere indagata. E intanto fa un passo indietro il capo di gabinetto Romeo. Lavoro, secondo i dati Istat, gli aumenti delle retribuzioni mai così bassi. Siria, accordo ad Aleppo, ripresa l'evacuazione della zona est. Gli islamisti rivendicano l'omicidio dell'ambasciatore russo, ma Al-Qaeda nega. Migranti, 7 cadaveri di migranti sono stati recuperati oggi nel Mediterraneo centrale durante alcune operazioni di soccorso, 300 le persone salvate. Il caso di Roberta Ragusa, ne parleremo tra pochi istanti. Arte, sono rientrate in Italia i quadri rubati al Museo di Castelvecchio. E poi meteo, bel tempo, con sole e temperature miti per le vacanze di Natale fino a Capodanno. E per il calcio, nell'anticipo di Serie A, Inter-Lazio sempre 0-0. E allora andiamo sul caso appunto di Roberta Ragusa, che ha fatto tanto discutere. È stato un caso veramente travagliato. Prima era stato prosciolto quello che si riteneva colpevole, poi innocente, poi dopo la Cassazione ha voluto che si riaprisse il caso con nuove indagini. Insomma, Roberta Ragusa, vi ricordate, la mamma di 45 anni scomparsa dalla sua abitazione di Gello, vicino Pisa, la periferia di Pisa, il 13 gennaio 2012, il giorno stesso della sciagura della Costa Concordia. Oggi, a quasi 5 anni da quella scomparsa, il giallo di Roberta Ragusa pare che si risolva. Secondo il giudice del Tribunale di Pisa, le prove sulla colpevolezza di Antonio Logli, elettricista, cinquantenne marito di Roberta, sono le prove evidenti. Logli quindi è stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio volontario, distruzione del cadavere, perché la povera Roberta Ragusa non è mai stata trovata. E, però con per sempre gli è stata levata la patria potestà, ma è stato, gli è stato solo comminato l'obbligo di dimora a Pisa. Ne parliamo con Tommaso Strombi del quotidiano La Nazione. Buonasera Tommaso. Tommaso Strombi, buonasera. Strombi, ciao Roberta. Strombi, perdonami Tommaso. Quindi intanto chiede questo ascoltatore: com'è possibile che sia stato condannato a 20 anni ma deve avere solo l'obbligo di dimora? No, non c'è solo l'obbligo di dimora, c'è anche gli viene tolta la patria potestà, c'è l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Se noi la leggiamo in un'ottica di delitto perfetto, potrebbe esserlo davvero, perché Dogli di fatto si libera della moglie, non è costretto a pagare una pesante separazione, perché la moglie aveva scopriamo dalle indagini, relazione extraconiugale con la segretaria, ex babysitter dei suoi figli, aveva scoperta quella notte stessa, da lì il litigio che potrebbe poi aver portato all'omicidio. Se ne libera quindi, viene ritenuto responsabile di questo omicidio, viene condannato a restare a casa perché il GUP ha negato l'arresto che pure è stato richiesto stamani, non solo, gli vengono tolti i figli e quindi rimane a casa con l'amante che è diventata nel frattempo compagna, quindi effettivamente se volessimo raccontarla in chiave di un crime sicuramente questo è un delitto perfetto. Ovviamente le cose stanno in parte diversamente, certamente questa è una sentenza che parte da o meglio cristallizza il principio della prova negativa, ovvero sia non ci può essere altro soggetto ritenuto responsabile di questo omicidio se quindi non lui. Senti Tommaso, forse mi sono distratta un momento prima guardando le agenzie, ma si è chiarito perché quindi non va in carcere, perché è un primo grado, perché no, perché il GUP ha negato la richiesta di arresto richiesta dalla procura al termine delle repliche stamani mattina e ha disposto il solo obbligo di dimora dalle 21 alle 6 del mattino. Poi nel momento in cui dovesse diventare definitiva la sentenza, quindi, come in tutti i processi, allora arriverà e andrà in carcere. Perché questo appunto, diciamo, dopo quel percorso giudiziario che c'era stato, era stato prosciolto, poi però la Cassazione ha chiesto che si facessero nuove indagini, di nuovo è stato rinviato a giudizio, quindi questo sarebbe il primo grado di questa seconda... In realtà la cosa è stata così, c'è stata una prima udienza preliminare dove lui viene prosciolto, la Cassazione chiede di rifissare una nuova udienza preliminare che è avvenuta, lui a quel punto ha scelto il rito abbreviato, i legali il rito abbreviato, perché ha fatto i suoi conti, ovvero sia, cioè comunque sia evito di andare a un processo di fronte a una corte d'assise e quindi a una giuria popolare che ormai l'ha bello e condannato da tempo. Sì, però perché ricordiamo, perdonami Tommaso, che soprattutto per reati molto gravi di solito appunto c'è la Corte d'Assise che è formata da cittadini. Da cittadini, oltre a due giudici, il giudice presidente, certo, il giudice all'atere, poi ci sono sei giudici popolari. E siccome che l'opinione pubblica diciamo è abbastanza orientata, a sfavore, diciamo, orientata esatto, su questo caso, lui ha pensato, naturalmente consigliato dai suoi avvocati, di fare il rito abbreviato, quindi ha evitato la Corte d'Assise, tra l'altro ha uno sconto di un terzo della pena, per cui la pena infatti che era stata richiesta dalla procura è di 30 anni, il rito abbreviato prevede un premio di un terzo e quindi ecco che si scende a 20 anni, e 20 anni gli sono stati combinati tutti, però con questa particolarità, il GUP ha negato l'arresto immediato così come richiesto, del resto l'arresto veniva chiesto su due ordini di motivi, la reiterazione del reato e il pericolo di fuga. Il pericolo di fuga in effetti a 5 anni di distanza con tutte le opportunità che aveva effettivamente risulta difficile anche oggettivamente da ammettere. Però lo ricordiamo agli ascoltatori, la reiterazione del reato la reiterazione del reato c'è una nuova compagna. Ricordavo appunto le ascoltatrici e ascoltatori che poi deve andare avanti questo percorso giudiziario, ci sarà il processo d'appello e poi la Cassazione, e quando in Cassazione dovesse diventare definitiva, ci fosse la conferma di questa condanna, allora andrebbe in carcere a quel punto. A quel punto, sempre che poi venga confermata, perché ripetiamo, stiamo in presenza di un processo dove manca il cadavere, purtroppo. E quindi il cadavere, come sappiamo, poi è quello che racconta tantissime cose. Però sono 5 anni che è scomparsa, non c'è stata traccia, non si è trovato. Comunque lui è accusato anche di distruzione del cadavere. Lui è stato condannato anche con questa sentenza per distruzione del cadavere. Tommaso Strambi della Nazione, ti ringrazio moltissimo. Grazie, ciao. Grazie. Roberta, buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Alberto dice: dopo la strage di Berlino la mia meta è una località, vediamo se riesce a leggere il sardo, Santus Etsin Domu, pensando seduto in casa, in modo da dire che sto a casa, nessuna modifica dei piani causa disoccupazione. Vabbè, Giuseppe dice: ero adolescente quando in Italia scoppiavano bombe sui treni, piazze e stazioni. È il periodo della tensione, insomma. Come italiani abbiamo pagato un prezzo altissimo, abbiamo vinto la guerra al terrorismo, uniti passeremo anche questa prova, dice Giuseppe, che evidentemente è ottimista e bisogna esserlo. Allora, vi ricordo velocissimamente quali sono le notizie principali, che sono appunto queste che arrivano, le notizie da Berlino: caccia all'uomo in Germania, al tunisino, il giovane tunisino in fuga, per 4 anni era stato in carcere in Italia, poi era arrivato in Germania, considerato armato e pericoloso. Intanto la mamma della giovane dispersa, Fabrizia Di Lorenzo, dice: rassegnata, sento che mi ha lasciata. E poi l'ANAC, l'autorità anticorruzione, che accusa di conflitto di interessi la giunta Raggi per la nomina del fratello di Marra, Raffaele Marra, che è stato arrestato nei giorni scorsi. Dice: Raggi sapeva, quindi può essere indagata. E poi c'è il passo indietro di Romeo, dice: ho sbagliato. Oggi è stata interrogata tra l'altro l'assessora Muraro. E poi per quanto riguarda il ministro Poletti, le parole che aveva detto nei giorni scorsi sui giovani all'estero, bufera su di lui, depositata la mozione di sfiducia. Per il calcio, Inter-Lazio per l'anticipo sempre 0-0. Adesso spazio europeo. Europa 24 notte. Ed eccoci qui con Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Per parlare adesso invece delle nomine che si faranno l'anno prossimo a capo delle varie istituzioni europee, no? Sì, è un 2017 che, oltre ad avere appuntamenti elettorali abbastanza cospicui e importanti, ha anche le nomine nelle istituzioni in primo piano, e c'è subito un derby italiano, Roberta, perché il 17 gennaio si celerà il prossimo presidente del Parlamento europeo, dopo che Martin Schulz ha annunciato che si dedicherà alla politica tedesca in vista delle elezioni di settembre in Germania. E allora abbiamo un derby a 4, addirittura ci sono ben 4 italiani tra i vari candidati delle varie famiglie politiche europee. Due sono, diciamo, più di bandiera: Eleonora Forenza, che rappresenterà la sinistra europea, e Pier Nicola Piedicini del Movimento 5 Stelle, che rappresenterà invece il gruppo EFDD degli euroscettici. Le due candidature, diciamo, pesi massimi saranno invece Antonio Tajani per i popolari europei e Gianni Pittella invece per i socialisti europei. Questo per il ruolo di Presidente del Parlamento Europeo. Presidente del Parlamento Europeo, ricordiamo che dai tempi di Emilio Colombo, quindi fine anni 70, in Italia non ha un Presidente del Parlamento Europeo. Ma attenzione, non è così scontato, ci sarà un italiano alla guida del prossimo Parlamento, perché, come si dice, tra i due litiganti il terzo gode, alla fine se sì, non tra si tra i quattro italiani verrà fuori qualcun altro, dici, che c'è non è l'ipotesi italiano. Che possa essere alla fine il belga e liberale Verhofstadt, se le due grandi famiglie popolari e socialisti non si mettessero d'accordo, poi potrebbe alla fine spuntarla come terzo incomodo, proprio per cercare di trovare una sintesi in questa battaglia, il liberale Verhofstadt. Diciamo che Tajani parte avvantaggiato teoricamente, perché spetterebbe a una rappresentante del centrodestra la prossima presidenza, dopo che Martin Schulz l'ha avuta per diversi anni. Ma i socialisti dicono: beh, tutte le maggiori cariche al momento sono della famiglia centrodestra in Europa, almeno, quindi almeno il Parlamento Europeo, almeno il Parlamento Europeo teniamolo per noi. Se così non fosse e poi venisse eletto Tajani, a quel punto a cascata potrebbe succedere qualcosa nelle altre due cariche. Allora, il presidente della Commissione europea Juncker in teoria è tranquillo, perché il suo è un mandato quinquennale, ma non si sa mai. Mentre a metà anno si dovrà verificare la carica di presidente del Consiglio europeo. Attualmente è il polacco Tusk, anche lui del centrodestra, però va a scadenza anche lui, e soprattutto non è così supportato dal governo polacco. Nel frattempo è cambiato, ora c'è la destra del PiS, con tutti gli annessi e connessi che abbiamo visto negli ultimi giorni, con l'assedio al Parlamento della Polonia da parte dei manifestanti per delle leggi contro la libertà di stampa. Insomma, anche quella carica potrebbe eventualmente cambiare, e magari, se non è andato ai socialisti, il Parlamento europeo potrebbe diventare socialista il prossimo presidente del Consiglio europeo. Un complicato mosaico, Roberto. Quindi queste le sfide in campo, e dovremo aspettare per forza il 2017 però per sapere come andrà a finire. Ora c'è Natale. grazie del giornale. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Oh, intanto vedo una buona notizia per l'occupazione. La proposta del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda convince Almaviva Contact, sapete il colosso dei call center, dove rischiavano di rimanere senza lavoro più di 2.000 persone. Almaviva Contact accoglie la proposta di mediazione formulata dal governo e quanto si apprende da una nota diffusa dall'azienda. Per il momento questo è. Intanto però vorrei capire che tempo farà per i prossimi giorni, visto che tanti aspettano di mettere gli sci o comunque di vivere fuori, all'esterno, caro Paolo Corazzon di Trebimeteo, portatore sano di sole? Ma certo, stavolta sì, buonasera Roberto, buonasera a tutti. Tra l'altro oggi, guarda, accade proprio il solstizio d'inverno, quindi è l'inizio ufficiale della stagione invernale, ma in realtà d'inverno ne vedremo ben poco nei prossimi giorni, con i suoi pro e i suoi contro anche. Allora, partiamo da domani con ancora un po' di instabilità all'estremo sud, le isole maggiori avranno qualche piovasco, ma saranno proprio le ultime piogge per un periodo prolungato. Arriveremo fino a fine anno senza perturbazioni sull'Italia, quindi alta pressione, sostanzialmente sole da nord a sud e tra l'altro anche temperature molto spesso ben al di sopra della norma, quindi non sarà un periodo freddo, il Natale e ripeto anche il Capodanno con ogni probabilità. L'unico vero aspetto negativo è la nebbia, nebbia che tornerà già da questa notte al nord e temo che per la pianura padana si apra un periodo di almeno 10 giorni con cielo grigio per la nebbia, non per altro, quindi quasi in tutta Italia il sole tranne in pianura padana, ecco. E sarà anche freddino perché senza sole si starà un po' peggio degli altri. Diciamo lo vedo così. Anche sul campo, lo diceva prima Dario Ricci di Inter Lazio, c'è un po' di nebbia, non tantissima, il pallone ancora si vede. Si comincia. Senti, quindi neve, dicevi, per gli amanti della neve? Allora guarda, ce n'è sulle Alpi, quantomeno su quelle centro-occidentali si scia benissimo, Piemonte, Val d'Aosta, anche in Lombardia si sta abbastanza bene, le Alpi orientali meno, però so che hanno innevato con la neve artificiale, quindi si scia anche lì. L'Appennino quest'anno è messo peggio, perché di neve ce n'è ben poca, anche lì con l'allenamento programmato qualcosa stanno facendo, però insomma arriverà la neve, ma temo non in queste vacanze di Natale, ecco, più che altro sole in montagna, quindi possibilmente nelle vacanze di agosto potrebbe arrivare. Ci manca solo, brava. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te, ci risentiamo venerdì comunque, certo, per aggiornare, grazie. Ulteriormente buon tempo a tutti, ciao Paolo. Ora invece Dario Ricci dalla nebbia dell'Inter Lazio ci dice qual è il risultato, mi sembra non sia cambiato. Siamo sempre sullo 0-0, cara Roberta, il secondo tempo che è iniziato da pochi minuti, da 5 minuti. Diciamo che come occasioni da gol siamo fermi a quelle che abbiamo descritto nel precedente collegamento, 3 buoni spunti per la Lazio, ma in un paio di occasioni bravissimo Handanovic nella terza, invece il colpo di testa di Milinkovic-Savic è finito di poco sopra la traversa. Per l'Inter un bello spunto di Brozovic, un sinistro a giro, in questo caso pronto Marchetti a respingere, quindi direi partita che per il momento non offre altri spunti, ma siamo appena all'inizio della ripresa. Senti, poi Dario, invece la vicenda del Milan che partiva, non partiva per la Supercoppa a Qatar, è partita? Sì, Qatar, è partito, venerdì, sì. È pure arrivato, quindi insomma tutto sommato quella che non doveva essere una notizia, perché non doveva esserci nessun disguido e che invece il guasto aereo di ieri aveva trasformato in tale, è rientrata, quindi adesso si pensa veramente solo a venerdì a giocare questa Supercoppa a Doha, lo ricordo, alle 17:30 ora italiana. Del resto poi i catarioti ci mettono quasi 3 milioni di euro, quindi era forse, tutto il loro interesse, forse tutto sommato è valsa la pena andarci, insomma. Va bene, grazie Dario Ricci, grazie, ciao Dario, a te. Ciao. Buona partita, visto che non è ancora finita per il momento, dicevamo prosegue 0-0, poi ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, ultimissimi, riesco a leggere questo di questo ascoltatore, dice: perché con Mafia Capitale e un debito di 15 miliardi a Roma si sono svegliati ora, allora che ben vengano le indagini resteranno non certo quelli del Movimento 5 Stelle e si procederà ancora per un bel po' e si capirà un po' come stanno le cose, si spera. Direi che è il momento, sì, di lasciarci, poi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.